Salva Danaio con Simone Spezia. Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Salvadanaio. Oggi ci occuperemo di condominio. È uscito ieri un rapporto speciale con il Sole 24 Ore e tra l'altro oggi pomeriggio ci sarà un video forum sul sito del sole24ore.com con le risposte ai lettori, quelle naturalmente che lasceremo inevase nella puntata di oggi. Potete chiamare all'800 24 00 24 come sempre su tutti i temi possibili naturalmente che riguardano il condominio, da quello di più stretta attualità della morosità all'innaffiatura fraudolenta, vogliamo chiamarla così, e cito il caso specifico del mio condominio. Saluto l'avvocato Augusto Cirla che è in studio con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore che ha curato questo rapporto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto, come sempre, un quadro della giornata di borsa, una giornata di borsa che è negativa in generale sulle piazze finanziarie europee, con Francoforte che cede lo 0,41%, il CAC 40 lo 0,33%, il FTSE 100 a Londra lo 0,27%, mentre invece a Milano le cose vanno bene, il FTSE All Share guadagna lo 0,35%, il FTSE MIB lo 0,40%. Un quadro dei singoli titoli: Alleanza è il titolo migliore in questo momento, guadagna 3 punti percentuali. Bene fanno un po' tutti gli editoriali. UBS ha alzato il target price tanto su Mondadori quanto sul gruppo editoriale Espresso quanto su RCS Media Group. Mondadori è tra i titoli migliori del FTSE MIB, più 2,89%. Bene Generali più 2,70%. Unicredit 1,5%. Tra l'altro oggi è attesa la decisione di Unicredit, così come di Intesa San Paolo, sui cosiddetti Tremonti bond. In negativo troviamo A2A che perde il 2,26%, l'Ottomatica l'1,09%, il Prismian lo 0,84%, ST Microelectronics lo 0,84%, altrettanto quindi euro contro dollaro a 1,45,67, si sta indebolendo in questi ultimi minuti. Veniamo al tema di oggi, vi ricordo ancora il numero 800 24 00 24, e iniziamo proprio dal tema della morosità, perché sono usciti dei dati interessanti dall'ANCI nelle scorse settimane e sono dati che indicano un effetto della crisi che forse era imprevisto, appunto, sulla morosità nel pagamento delle rate condominiali. Sentiamo. E se la crisi arriva anche in condominio? A quanto pare le difficoltà economiche degli italiani hanno già cominciato a riflettersi nella gestione degli immobili. Se in tempi normali la percentuale di morosi è pari a circa il 10% dei condomini, sembra che di questi tempi, anche a causa della crisi economica, siano sempre di più coloro che scelgono di non pagare le quote mensili per l'immobile, dando la priorità ad altre spese domestiche, come il mutuo e le bollette, considerate più urgenti di quelle condominiali. Ma di fronte al mancato pagamento, che cosa succede? La legge è chiara. Prima la messa in mora, poi il decreto ingiuntivo e, se non si ottiene nulla, l'atto di precetto. In ultima istanza si può giungere fino al pignoramento mobiliare e immobiliare. La questione però non riguarda solo chi non paga. Anche chi è regolare nei pagamenti, infatti, rischia di farne le spese. Se non hai soldi, l'amministratore non potrà pagare i fornitori, la ditta di pulizie, il portinaio, con tutte le relative conseguenze. La normale manutenzione dell'edificio non potrà essere effettuata in tutte le sue componenti. Si potrebbe incappare in multe per le bollette non pagate e così via. A chi ha problemi economici, si consiglia dunque di parlare chiaro all'amministratore, che è l'unico che può evitare la gogna condominiale e che, eventualmente, può dare una mano concedendo una minima dilazione. Allora, avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, Associazione Italiana Condomini, iniziamo proprio da qua, dalla morosità. A livello di polso, anche lei questa sensazione, quel che emerge dai dati? Certamente, certamente. La morosità è un problema che sta scaldando il condominio in tutti i sensi. Scalda l'amministratore, scalda i condomini e scalda le assemblee. Perché? È un comune denominatore. Nel momento stesso che il condomino non paga, per i problemi che abbiamo sentito prima, insomma la crisi coinvolge un po' tutto e le bollette del condominio sono le ultime ad essere pagate, perché abbiamo una procedura di recupero per legge molto lenta, molto lunga, e quindi insomma il condomino che paga ahimè, si trova tra virgolette un po' penalizzato, perché rischia di creare un fondo morosità, che spesso lo sentiamo nelle assemblee, per far fronte ai fornitori, altrimenti interrompono i servizi, si fanno molto più lenti negli interventi manutentivi e quant'altro. E l'amministratore, quindi in crisi i condomini adempienti, diciamo così, in crisi anche l'amministratore, perché insomma ha il telefono bollente da parte dei fornitori. Questo è un po' il quadro preoccupante oggi del condominio. E certo, una soluzione, almeno in parte, potrebbe essere semplicemente diminuire le spese di condominio, e questo si fa cercando di far risparmiare il condominio stesso. Cristiano Dell'Oste, a questo è dedicata la prima pagina, l'apertura del dossier del lunedì. Ma sì, certo, noi abbiamo provato a fare, con l'aiuto insomma del rapporto Anaci Censis e con gli ultimi dati dell'Istat, abbiamo provato a fare un calcolo, una stima complessiva delle spese che ogni anno deve affrontare una famiglia. Il dato medio di chi vive in condominio e ha riscaldamento centralizzato si aggira sui 1.900 euro al mese, che poi proiettati per tutte le famiglie che vivono in condominio in Italia diventano 15,6 miliardi di euro, quindi un importo enorme. È chiaro che le spese di riscaldamento rappresentano una voce molto rilevante di tutto questo complesso. Arrivano in media, dove c'è riscaldamento centralizzato, agli 800 euro al mese, quindi insomma un buon 40% del totale. Allora, quella può essere una prima voce sulla quale cercare di andare a intervenire con i rimedi opportuni. Certo, in questo momento di difficoltà economica si pone poi un dilemma, perché quando si parla di riscaldamento diventa difficile ottenere dei veri risparmi senza effettuare qualche piccolo investimento, qualche minimo investimento, che può essere anche soltanto l'applicazione di valvole termostatiche per contabilizzare il calore, o l'introduzione di coibentazioni alle pareti. In ogni caso si tratta comunque in qualche modo di spendere prima per risparmiare dopo, e questo è oggetto anche di frizioni spesso e volentieri in assemblea tra quanti vorrebbero spendere subito e quanti invece vorrebbero quantomeno limitare gli esborsi fin dall'inizio. Ecco allora che, così abbiamo anche l'altro fronte, un modo più semplice per risparmiare può essere quello di intervenire sulle spese di manutenzione, sulle spese correnti, intensificando, diciamo, la trasparenza gestionale e cercando di avere più preventivi e, insomma, lavorando sull'efficienza, diciamo così. Avvocato Cira, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, in maniera abbastanza brutale a dir la verità, dice: gran parte del contenzioso condominiale è dovuto all'incompetenza o all'astuzia degli amministratori. A questa frase forse potremmo aggiungere insomma anche qualche spesa imprevista. Al di là della brutalità della frase, come facciamo a capire quando il nostro amministratore di condominio ci sta marciando un pochetto? Ecco, partiamo da questo presupposto. L'amministratore è sicuramente un po' il timoniere del condominio. Una buona amministrazione porta, a mio giudizio, anche a risparmi, a programmazioni di interventi, ed è chiaro che un amministratore che si limita magari a dire, non so, a stare dietro all'assemblea, così, abbiamo visto prima, abbiamo sentito che insomma l'assemblea è sempre abbastanza restio a intervenire, vi dicendo. Dall'altro lato non va negato il fatto che ci sono amministratori un po' troppo così allegri nella gestione, che magari propongono degli interventi che il condominio non è ancora pronto a ricevere, ed ecco che poi si crea a cascata quella morosità che ne parlavamo. Quindi sicuramente l'amministratore ha un ruolo fondamentale nella gestione del condominio, ovvio. E quindi se è un po' così traballino, allegro e superficiale, sicuramente il condomino ci rimette. Sì. Quindi attenzione alla scelta del buon amministratore. Massima attenzione alla scelta dell'amministratore, e soprattutto andarsi a fare una cosa che generalmente non si fa, ossia leggersi bene i bilanci. Certo, e soprattutto andare a vedere le pezze giustificative. È un controllo che va fatto, è un sacrificio. Quindi controllo sui documenti, e soprattutto sottolineo partecipazione al condominio attraverso la partecipazione dell'assemblea. Non deleghiamo, o peggio ancora stiamo assenti, assolutamente no. Prima telefonata è quella di Luciano, che ci chiama da Como. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, nel regolamento, diciamo, contrattuale del mio condominio, le proprietà esclusive devono essere destinate a fiori e a prato. Volevo chiedere se invece una porzione di queste può essere destinata a realizzare un orticello. È il suo giardino questo, quindi? Esatto, il mio giardino. Benissimo. Cristiano dell'Oste, Augusto Cirla, chi vuole rispondere? Avvocato. Allora, è chiaro che i vincoli sull'uso delle parti comuni previsti dal regolamento fermano ogni iniziativa del condomino, perché altrimenti sarebbe un po' l'anarchia. No, nel caso in specie è vero che il giardino ha una funzione molto più ampia di quello del fiorellino e delle piante, però ritengo che trasformarlo in un orto, soprattutto se ha così ad uso esclusivo di un condomino, però assolutamente se, però se no. È suo, se è suo, avvocato. Ah no, se è suo privato, certamente. Se il giardino è di proprietà esclusiva del singolo condomino, non c'è questa grossa trasformazione o comunque pregiudizio per il condominio, perché sfido qualsiasi condomino a fare una differenza, che ne so, tra il fiore e il frutto, insomma, sì. e l'ortaggio che nasce. Quindi assolutamente è possibile. Beh, qualche differenza c'è, però insomma magari sì, ma a livello di funzione, no, di certo. Naturalmente. Luciano, se ci vuole anche coltivare le ortiche, quindi può farlo. Le 12, 32 minuti, 42 secondi, stiamo parlando di condominio, potete chiamare all'800 24 00 24, ci ha chiamato Gennaro da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, si tratta di questo, è un problema molto semplice, addirittura banale, c'è un balcone che è in pessime condizioni di... come stato, diciamo, generale, cioè i frontalini che sono ormai ossidati, le pietre sono cadute giù, è stato spicconato, eccetera, e in un'assemblea di un anno fa fu deciso di far rifare i frontalini, che sono di competenza dell'amministrazione del condominio, perché inerenti alla facciata, solo a condizione che i condomini interessati provvedessero a rifare il piano di calpestio. Questo per evitare infiltrazioni e altri problemi connessi. Io sono perfettamente d'accordo a fare questa cosa, però c'è un problema. L'amministratore insiste che il balcone è di mia proprietà esclusiva, quindi io dovrei provvedere anche a rifare la parte sottostante del balcone che funge da tetto, da copertura per il balcone dell'inquilino del piano di sotto. Ecco il mio problema. Bene. Avvocato? Sì. Allora, per quanto riguarda i frontalini, giustamente quello che ha detto, nel senso che è una parte comune della facciata, quindi tutti pagano sostanzialmente. Vedo un po' con qualche dubbio questo vincolo che viene posto anche con il rifacimento della pavimentazione, perché la pavimentazione, come tutti sanno, è una parte esclusiva di proprietà del condomino. Però probabilmente questa scelta è stata dettata da tecniche di costruzione, di realizzo della riparazione. Quindi giusto, ben venga che venga rifatto un po' il tutto ad evitare infiltrazioni. Per quanto riguarda invece la soletta del balcone, allora, principio generale è che il balcone in sé per sé è un prolungamento sostanzialmente dell'unità immobiliare e quindi è di proprietà del singolo condomino. Mentre c'era un precedente orientamento che divideva sostanzialmente la soletta del balcone al 50%, diciamo, tra il condomino sottostante e il condomino invece proprietario del balcone, recentemente ormai si è confermato un principio che dice che effettivamente la soletta è di proprietà del condomino sul quale il cui appartamento proprio si prolunga sul balcone. Cosa vuol dire? Nel caso in particolare era stato previsto il divieto proprio di quello del condomino sottostante di attaccare tende e quant'altro nella soletta. Quindi vuol dire che, insomma, che se perde la soletta, la responsabilità è del proprietario del balcone. Del proprietario del balcone, punto e basta. Una precisazione vorrei da Cristiano dell'Oste, perché se ne parlava prima nel corso della pausa, visto che sono in arrivo un paio di domande proprio sul ruolo degli amministratori. Dicevamo, come si fa a capire se il nostro amministratore, insomma, è un pochino troppo, certo, allegro? Quali sono i nostri diritti che possiamo far valere con l'amministratore? Certo. dicevamo prima che appunto l'assemblea è il momento principale in cui si può insomma chiedere spiegazioni, confrontarsi con l'amministratore e con gli altri condomini, però bisogna arrivarci in qualche modo preparati. E in questo senso molte delle domande che abbiamo ricevuto via email lamentavano una scarsa disponibilità dell'amministratore a mostrare la documentazione contabile, le ricevute, insomma i preventivi magari ricevuti dalle diverse ditte incaricate dei lavori, anche in momenti che non fossero l'assemblea stessa, in cui può essere troppo tardi per mettersi a ragionare, ad analizzare i documenti, a fare un po' di confronti. Ecco, in questo è bene ricordare che pur senza poter andare tutti i giorni dall'amministratore a importunarlo e a chiedere documenti, c'è comunque il diritto di vedere anche lontano dal momento dell'assemblea le ricevute relative alle spese, i preventivi, le documentazioni sui pagamenti effettuati. Questo è un diritto dei condomini, l'amministratore non può rifiutarsi di mostrare ciò che sta facendo, in buona sostanza. Questo è bene sottolinearlo, perché pare non sia così scontato, ecco, accedere. Poi magari l'avvocato può confermare questo. Sì, è vero. Cioè, devo dire, abbastanza, gli amministratori sono abbastanza restii a far vedere queste pezze giustificative. Il principio è quello appena detto, cioè prima dell'assemblea il condomino ha il diritto di prendere visione delle pezze giustificative, non fosse altro per esprimere poi scientemente, certo, il proprio voto in assemblea. Però anche durante la gestione può farlo, ovviamente con le dovute cautele, senza interferire, intralciare l'operato dell'amministratore chiedendo un appuntamento e prendendo visione di tutta la documentazione condominiale. Allora, c'è qualcuno che forse la documentazione l'ha già presa in visione e comunque sia ha deciso che l'amministratore lo vuole mandar via. Eleonora, che ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, il nostro amministratore in un condominio ha lasciato debiti per 50.000 euro, in un altro non ha pagato l'INPS per il portiere, hanno fatto 50-50. Qua ha aumentato di 20 euro al mese senza assemblea. Di 20 euro al mese di condominio. Con che giustificazione, Eleonora? Nessuna. 20 euro in più al mese senza giustificazione. Avvocato, come lo mandano via questo? Al volo, nel senso che è un'amministrazione molto più che allegra. Partiamo dall'ultimo aumento. Chiaro che è illegittimo, nessuno può imporre ai condomini qualcosa che non sia prima stato valutato e deliberato dall'assemblea. Gravi irregolarità dell'amministratore sono motivo di revoca. O decide l'assemblea con le maggioranze, che è la stessa che ci serve per la nomina, 500 millesimi la maggioranza degli intervenuti, oppure l'autorità giudiziaria. E la grave irregolarità nella contabilità è motivo di revoca giudiziaria dell'amministratore. E quindi a chi ci si deve rivolgere? Al tribunale, in volontaria giurisdizione. Anche qua è vero che si può andare addirittura anche senza avvocato, senza l'assistenza, però è una procedura che insomma bisogna andare in punta di forchetta, bisogna sapere tutte le regole, perché sennò altrimenti... Meglio averla. Avvocato, se io volessi cacciar via l'amministratore del mio condominio, posso convocare io l'assemblea oppure no? Da solo no. Ci vogliono almeno due condomini che rappresentino un sesto dei millesimi. In questo caso si invita l'amministratore, è sufficiente una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si invita l'amministratore a convocare l'assemblea con un determinato ordine del giorno, che nel caso potrebbe essere solo uno: revoca amministratore. Se l'amministratore non provvede, allora l'assemblea può essere autoconvocata da questi condomini che ne hanno fatto richiesta. Bene, la risposta mi sembra esauriente. Ancora amministratori sotto tiro. Carmelo ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno, sono Carmelo da Genova. Sì, sì. Desidero chiedere all'avvocato una distinta sommaria di quelle spese da parte dell'amministratore che vanno sotto il nome di borsuali, come borsa. Spese borsuali. Vuole sapere cosa sono in sostanza? Quali sono? Quali sono, avvocato? Sì, ecco, le spese borsuali sono praticamente le anticipazioni che l'amministratore fa per la conduzione più diretta, vale a dire le spese per le telefonate che fa ai condomini, ai fornitori, le spese per le raccomandate per la convocazione dell'assemblea o per comunicazioni scritte che lui fa ai singoli condomini o ai fornitori, insomma tutto quello che è di contorno all'emolumento pattuito e deliberato dall'assemblea. Stiamo attenti sulle spese borsuali perché spesso se ne approfittano gli amministratori, cioè vengono indicate somme forfettarie che poi non si riesce a giustificare. Ma normalmente le spese borsuali si aggirano sul circa il 10% dell'emolumento, l'8, il 10%. Ebbene, farsene chiarire prima. Il consiglio è stabilire in assemblea una somma forfettaria fissa. No, che predetermina l'amministratore in modo che così se l'assemblea la ritiene giusta secondo poi del numero dei condomini non abbiamo sorprese poi a consuntivo. Prima delle altre telefonate si parlava di morosità. Al 349-238-6666 ci arriva un messaggio da Gabriele da Verona, ci dice: vivo in un condominio con riscaldamento centralizzato, per una fattura molto elevata a causa di condomini morosi abbiamo avuto il blocco della fornitura. Vi chiedo, visto l'avvicinarsi della necessità del riscaldamento, quali sono le responsabilità della necessità del riscaldamento, quali sono le responsabilità dell'amministratore? Non dovrebbe in ogni caso garantire il riscaldamento? Sì, deve garantirlo, ma se ha la provvista. Nel momento stesso che i condomini non provvedono a versare i soldi all'amministratore, purtroppo l'amministratore, anzi giustamente, non purtroppo, non può anticipare lui. Credo che, anzi ritengo che il dovere dell'amministratore sia immediatamente allertare i condomini convocando un'assemblea apposita e dice: carissimi condomini, qui se non pagate il riscaldamento salta. Perché è vero che è un servizio primario dell'abitazione, però come tutti i servizi vanno pagati, non si può pretendere che la società erogatrice del riscaldamento lo faccia gratis. E se gli altri non pagano, il povero Gabriele deve chiamare la protezione civile, avvocato. deve provvedere con una copertina in più, perché se effettivamente gli altri non pagano è un problema. Ho assistito peraltro a condomini che addirittura con pochi condomini che pagavano il riscaldamento hanno deciso di rinunciare al servizio di riscaldamento perché altrimenti dovevano pagare solo loro. Certo. Allora, Ernest o Hermes, così ho scritto, e ci chiama da Ancona. Buongiorno. Buongiorno, sono Hermes Montanari. Hermes, ok, perfetto. Sì, Hermes, prego. No, io volevo fare una domanda di questo genere. Sono comproprietario con mia moglie di un appartamento dove c'è un amministratore che l'amministra. La domanda è questa: siccome lui convoca soltanto me e non ha mai convocato mia moglie, è valida o non è valida l'assemblea? Le spiego meglio. Siccome è successo che io ho pagato dei soldi che lui doveva avere e questo me li ha addirittura sollecitati e io l'avevo già pagato, però il nome era di mia moglie che aveva fatto il versamento. Quindi la domanda è: ma è valida l'assemblea se siamo intestatari in due e ne convoco uno solo? Avvocato. Sì, certo, è valida anche se sono in comproprietà, nel senso che c'è una presunzione di conoscenza tra i coniugi dell'oggetto del deliberato. È chiaro che nel momento stesso che è invece a conoscenza dell'amministratore che questa così idilliaca unione non vada bene, allora è ovvio che deve convocare tutte e due. Mi spiego, se l'amministratore è a conoscenza del fatto, ad esempio, che i coniugi sono separati, deve convocare per forza tutte e due i coniugi. Se invece è la famiglia normale, diciamo, che vive nel condominio, è sufficiente la convocazione di uno dei due comproprietari sostanzialmente. 12:45 minuti, 54 secondi. Giuseppe ci chiama da Lecco, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato, molto gentili. Grazie a lei. Molto interessante la trasmissione che appena ho tempo e modo di seguire sono della partita. Grazie due volte, prego. Dunque, la mia domanda, intanto condivido sui problemi che mi sembra di capire emergano dalle gestioni dei vari amministratori. E noi siamo fra questi e come consiglieri di Scala siamo in tre nella palazzina in cui abito, ci siamo molto attivati in questi ultimi tempi, abbiamo cambiato due amministratori che si erano comportati in un modo oggi poco censurabile e nonostante il grande impegno che profondiamo in questa attività di controllo, di supervisione all'amministratore, adesso le cose sembrano vadano meglio con anche congrui risparmi nella gestione del condominio stesso. Però vengo alla domanda specifica a cui vorrei avere una risposta dai vostri esperti. Dunque, la palazzina in cui abito si compone di un corpo unico, diciamo scala A e scala B, e di una palazzina staccata, scala C, identifichiamo in questo modo. Dunque, il corpo è unico per la scala B e la C è la staccata. Ultimamente abbiamo dovuto intervenire presso il corpo staccato composto da 5 appartamenti, quello che ho definito palazzina C, con un intervento che si rivela molto oneroso, perché abbiamo dovuto sostituire dei tubi che portano in fognatura con scarico dal tetto dei pluviali di questa stessa palazzina. Erano rimasti ostruiti perché in pratica le radici del giardino avevano finito per infilarsi dentro, intrufolarsi. E a distanza di anni avevano creato questo problema. In pratica si è dovuto fare effettuare scavo, sostituire le tubazioni vecchie, perché dai bicchieri si erano infilato appunto queste radici, e adesso abbiamo messo tutto a posto. Bene, la premessa è chiara. La domanda qual è, Giuseppe? La domanda è, in sede di pagamento, diciamo, questo intervento, dato che è ben identificabile nella palazzina C, e di competenza dovrà far fronte soltanto i 5 condomini di questa palazzina, o dovremo far fronte tutti quanti noi? Grazie Giuseppe. Cristiano Dell'Oste, vuoi rispondere tu? Sì, diciamo che questo è un caso che si può presentare abbastanza di frequente nella prassi. Sostanzialmente qui i lavori hanno interessato le parti comuni dell'unità, chiamiamola C, della palazzina C, quindi è tra questi condomini che si deve andare a dividere la spesa. Sarebbe stato diverso se i lavori fossero stati fatti su parti comuni a entrambe le palazzine. Pensiamo, non so, se ci fosse un cortile o un giardino che magari divide i due complessi, quindi l'impostazione dell'ascoltatore era corretta. Allora, sentiamo Gianni che ci chiama dalla provincia di Novara. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato, è una trasmissione veramente eccellente. Spiego subito, noi siamo secondo... Gianni, abbassi la radio, perché sennò la sentiamo in una maniera indegna. Tolgo la mia voce che è meglio. Grazie, perfetto. Allora, dicevo, siamo 6 condomini, tutti proprietari, con riscaldamento centralizzato. Questo è il terzo anno che 2 dei condomini non pagano le spese, e chiaramente abbiamo delle spese notevoli. Ecco, noi abbiamo chiesto quest'anno, a luglio, in un'assemblea, in 4, abbiamo chiesto la sospensione del riscaldamento. Il problema è che c'è un minorenne. Mi scusi, sospensione del riscaldamento solamente per quanto riguarda questi 2 condomini? No, il per problema tutti è che voi, essendo centralizzato, non è riscaldamento da tutti. E uno dei 2 condomini che non paga ha un minorenne. C'è possibilità, quindi si può fare una cosa del genere, chiedere una sospensione? E visto che abbiamo deciso di andare per vie legali, c'è possibilità di recuperare le spese? Che cosa accadrà a questo punto? Avvocato, più o meno il tema è abbastanza simile a quello del quale parlavamo prima. Sì, cioè il problema del riscaldamento, stiamo attenti però, perché mi è sembrato di capire che se l'impianto è centralizzato e non è possibile staccare i 2 condomini che non pagano, va a finire che ci vanno di mezzo tutti. Sì, ma lui diceva siamo disposti a staccare tutto quanto, però c'è un minore di queste case. Questo non è di ostacolo, perché dicevamo prima, è vero che il riscaldamento è un servizio primario, ma il servizio primario va pagato, quindi è impensabile che possano intervenire altri fattori rispetto a quello purtroppo del pagamento. Per quanto riguarda il recupero, ci siamo già soffermati, e certo si può, i soldi vanno poi presi, cioè, teniamo presente che c'è l'immobile, che è una garanzia reale, che sul quale possiamo poi andare a recuperare i nostri soldi. È un po' lunga la procedura, però alla fine si arriva. Francesco ci chiama dalla provincia di Chieti. Buongiorno Francesco. Buongiorno, una domanda, revisione delle tabelle millesimali. Il costruttore ci ha fatto firmare in sede di acquisto le tabelle millesimali con l'usamento il regolamento di condominio. Successivamente ce ne siamo accorti che il costruttore aveva apportato delle modifiche a 2 sottotetti e li aveva trasformati in appartamenti. millesimi erano sbagliati in modo evidentissimo. In seguito a delle sollecitudini il costruttore ha revisionato le tabelle millesimali e le ha presentate poi all'amministratore che ha convocato l'assemblea. In sede di assemblea non erano presenti tutti i condomini, ma soltanto una parte di condomini che rendeva valida l'assemblea con il millesimi di proprietà e con il numero dei condomini che rende valida l'assemblea. Abbiamo votato all'unanimità l'approvazione delle tabelle millesimali. La mia domanda è: sono valide la revisione delle tabelle millesimali approvate dall'assemblea in questo modo? Qualche altro condomino può fare opposizione? In che modo può fare opposizione? Avvocato. Ecco, si è ormai consolidato un orientamento di questo genere. Mentre prima si diceva le tabelle millesimali previste nel regolamento sono modificabili solo con l'unanimità, per l'amor del cielo vale ancora questo principio. Però teniamo presente che gli unici che possono poi contestare queste tabelle sono solo coloro che non le hanno deliberate. Mi spiego: se su 10 condomini 8 le approvano in assemblea e 2 no, gli 8 non potranno più domani dire le tabelle non vanno bene perché non sono approvate all'unanimità. Per loro valgono. No, sono solo coloro che non le hanno provate che potranno effettivamente sollevare problemi, il che comporta poi la revisione della tabella da parte dell'autorità giudiziaria. Brevissimamente, Basilio, che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno, 30 secondi Basilio. Buondì, grazie, molto veloce. Classica diatriba condominiale, 32 appartamenti, quindi 32 condomini, posti diciamo per parcheggio comune 21, quindi nettamente inferiori. Ci sono alcuni condomini che mettono il camper fermo lì, pensando che probabilmente fosse sia un parcheggio pensione. Abbiamo provato tramite riunioni condominiali a far modo di farglielo spostare, ma non ci è stato verso. Ma sono loro i parcheggi? Sono loro i parcheggi dove mettono il camper o sono dei parcheggi a rotazione? No, sono un'area disposta con dei parcheggi a lisca di pesce fissi. Cioè non è, il regolamento purtroppo non dice nulla di chiaro in merito ai parcheggi. Chiarissimo, chiarissimo Basilio, brevissimamente Cristiano Dell'Oste. Ma direi che in questo caso la cosa più saggia è, come dire, approvare una turnazione nell'utilizzo dei parcheggi in sede di regolamento. E questa è la soluzione. Grazie dunque a tutti quanti, a Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, all'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale Assocond, Associazione Italiana Condomini, e grazie a Gaia Romani in redazione, a Filippo Aureggi in regia e anche al nostro ascoltatore, diciamolo, avvelenato con gli amministratori di condominio, che ci sta scrivendo sms praticamente dall'inizio della trasmissione sempre con lo stesso tema. Non mi resta ricordarvi che oggi a partire dalle 15.30 videoforum sul condominio sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Grazie naturalmente anche a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, buona giornata. Salva Danaio.